Capitolo 30. Leslie decide. Un'improvvisa epidemia di influenza a Glen e al villaggio dei pescatori tenne Gilbert impegnato per i 15 giorni seguenti, impedendogli di fare visita al capitano Jim, come aveva promesso. Anna, malgrado tutto, cominciò a sperare che avesse cambiato idea riguardo a Dick Moore e, pensando bene di non svegliare il can che dorme, non parlò più dell'argomento, ma ci pensava in continuazione. «Mi chiedo se farei bene a dire a Gilbert che Leslie prova qualcosa per Owen», pensava. «Gilbert non le lascerebbe mai capire che lo sa, e l'orgoglio di Leslie non avrebbe a soffrirne, ma sarebbe un modo per farlo decidere a lasciar stare Dick Moore. Devo o non devo farlo? Ah, no, dopo tutto, non posso. Le promesse sono sacre ed io non ho alcun diritto di rivelare il segreto di Leslie. Oh, in vita mia, non ho mai provato un'angoscia simile. Mi rovina la primavera e il resto». Una sera, senza preavviso, Gilbert le propose di andare con lui dal capitano Jim. Anna acconsentì con il cuore stretto e si misero in cammino. 2 settimane di tiepido sole avevano miracolosamente trasformato il tetro paesaggio osservato 15 giorni prima da Gilbert. Le colline e i campi erano asciutti, bruni e caldi, pronti a produrre boccioli e fiori. La baia era di nuovo animata di risa. La lunga strada era un nastro rosso lucente. Sulle dune un gruppo di ragazzi usciti a pesca bruciava la spessa erba secca estiva delle dune. Le fiamme si levavano rosee, innalzando uno stendardo infuocato sullo sfondo del golfo scuro e illuminando il canale e il villaggio dei pescatori. Era uno scenario pittoresco che solitamente avrebbe mandato Anna in visibilio. Invece, quella sera, la passeggiata non le dava alcun piacere. E nemmeno a Gilbert. Si sentiva la mancanza della reciproca confidenza e dell'identità di gusti e di opinioni. Che Anna disapprovasse il progetto si intuiva facilmente dalla piega altera del capo e dalla studiata cortesia dei commenti. La bocca di Gilbert era atteggiata all'ostinazione dei Blythe, ma gli occhi mostravano preoccupazione. Intendeva compiere quello che gli sembrava il suo dovere, ma la rottura dell'armonia coniugale era un prezzo alto da pagare. Tutti e due furono quindi contenti quando arrivarono al faro e si sentirono in colpa per esserlo. Il capitano Jim ripose la rete che stava riparando e li accolse con gioia. Alla luce rivelatrice della sera primaverile parve ad Anna più vecchio del solito. I capelli si erano fatti molto più grigi e la mano, benché ancora forte, tremava un poco, ma gli occhi azzurri, specchio di un'anima indomita e impavida, erano limpidi e fermi. Il capitano Jim ascoltò in attonito silenzio quel che Gilbert aveva da dire. Anna, sapendo quanto il vecchio adorasse Leslie, era praticamente certa che si sarebbe schierato dalla sua parte, ma non sperava che il fatto influisse sulla decisione di Gilbert. Fu perciò sorpresa oltre ogni limite quando il capitano Jim, lentamente e in tono triste ma privo di esitazioni, espresse l'opinione che Leslie doveva essere avvertita. «Oh, capitano Jim, non avrei mai pensato che lei dicesse questo!» esclamò in tono di rimprovero. «Pensavo che volesse evitarle altri guai!» Il capitano Jim scosse la testa. «È quel che vorrei. So che cosa prova Madame Blythe, lo provo anch'io. Ma non è secondo i sentimenti che dobbiamo governare la barca della vita. No, no. Così facendo andremo incontro a chissà quanti naufragi. C'è una sola bussola sicura, quella di ciò che è giusto. E noi dobbiamo fare rotta basandoci su quella. Sono d'accordo con il dottore. Se c'è una possibilità per Dick, Leslie deve saperlo. Non c'è alternativa, a mio vedere.» «Beh», disse Anna, arrendendosi sfiduciata, «voi aspettate che la signorina Cornelia vi abbia tra le mani. Cornelia ci pelerà vivi, questo è certo», confermò il capitano Jim. «Voi donne siete creature meravigliose, Madame Blythe, ma anche un tantino illogiche. Lei ha fatto l'università e Cornelia no, però ragionate allo stesso modo. Ma forse è meglio così, a mio vedere la logica è una cosa dura e spietata. Ora preparo il tè, così potremo berne una tazza e parlare di cose più piacevoli, tanto per calmarci un po'. Se non altro, il tè e la conversazione del capitano Jim calmarono Anna, facendola desistere dal proposito di infierire su Gilbert durante la strada del ritorno. Non fece alcun cenno alla questione scottante, ma conversò amabilmente di altri argomenti e Gilbert capì che era perdonato con riserva. Il capitano Jim sembra più debole e curvo del solito questa primavera. Durante l'inverno è invecchiato, disse Anna con tristezza. Temo che presto andrà a raggiungere la sua Margaret. Ah, non riesco a pensarci. Four Winds non sarà più lo stesso posto quando il capitano Jim prenderà il largo, ammise Gilbert. La sera seguente si recò alla casa sulla riva del ruscello. Anna, irrequieta, non riuscì a star ferma fino al suo ritorno. Beh, cosa ha detto Leslie? Chiese quando rientrò. Praticamente niente, aveva l'aria sbalordita. Gli farà fare l'operazione? Ci penserà e deciderà al più presto. Gilbert si lasciò cadere nella poltrona davanti al fuoco. Appariva stanco. Non era stato facile per lui parlare con Leslie e il terrore apparso negli occhi della donna quando aveva afferrato la portata delle sue parole non era piacevole da ricordare. Ora che il dado era tratto, cominciava ad avere dei dubbi. Anna lo guardò con senso di rimorso, poi si sedette sul tappeto accanto a lui e appoggiò il capo sul suo braccio. Gilbert, sono stata odiosa con te, prometto di non farlo più. Chiamami pure Pellicarota, ma poi perdonami. Gilbert capì che comunque fossero andate le cose, non si sarebbe sentito dire, te l'avevo detto, ma non era una grande consolazione. Il dovere in astratto è un conto, il dovere in concreto è un altro, specialmente quando chi lo compie si trova ad affrontare lo sguardo di una donna. Nei 3 giorni seguenti Anna si tenne istintivamente lontana da Leslie. Alla sera del terzo giorno Leslie si presentò alla casetta e disse a Gilbert che aveva deciso. Avrebbe portato Dick a Montreal per l'operazione. Era molto pallida e sembrava essersi richiusa nel suo antico riserbo, ma dai suoi occhi era scomparsa l'espressione che aveva ossessionato Gilbert. Erano freddi e limpidi. Si accinse a discutere i dettagli in tono deciso e pratico. C'erano progetti da fare e molti particolari da considerare. Una volta ottenute le informazioni che voleva, Leslie tornò a casa. Anna si offrì di accompagnarla per un tratto. Ah, oh, no, meglio di no, disse Leslie seccamente. Oggi è piovuto, il terreno è molle. Buonanotte. Ho perso un'amica, si chiese Anna con un sospiro. Se l'operazione riuscirà e Dick Moore tornerà quello di una volta, Leslie si rifugierà in una solitudine interiore inaccessibile a noi tutti. Forse lascerà Dick, disse Gilbert. Oh, Leslie non lo farebbe mai, Gilbert. Ha un forte senso del dovere. La nonna West le aveva inculcato l'idea che non bisogna mai sottrarsi alle responsabilità che si assumono, qualsiasi siano le conseguenze. È una delle sue leggi cardinali. Molto antiquata, secondo me. Non essere caustica, Anna cara, sai anche tu che non è antiquata. Sai che tu stessa consideri sacre le responsabilità che assumi e hai ragione. Il disprezzo delle responsabilità è la maledizione della vita moderna, il motivo segreto dell'inquietudine e dell'insoddisfazione che dominano il mondo. Oh, sembra che parli dal pulpito, lo canzonò Anna. Ma pur canzonandolo sapeva che aveva ragione e soffriva per Leslie. Una settimana dopo la signorina Cornelia calò come una valanga sulla casetta. Gilbert non c'era e Anna dovette affrontare da sola l'impatto. Miss Cornelia non attese neppure d'essersi tolta il cappello per parlare. Anna, ma è proprio vera la notizia che il dottor Blythe ha suggerito a Leslie di portare Dick a Montreal per farlo operare? Sì, è verissimo, signorina Cornelia, disse Anna arditamente. È una crudeltà disumana, io dico, affermò la signorina Cornelia al colmo dell'agitazione. Credevo che il dottor Blythe fosse una persona come si deve. Non credevo che sarebbe arrivato a tanto. Mio marito ha ritenuto suo preciso dovere dire a Leslie che c'era una possibilità di guarigione per Dick, disse Anna con decisione. Poi, schierandosi dalla parte di Gilbert, aggiunse: E io sono d'accordo con lui. Oh no, è impossibile, mia cara, disse la signorina Cornelia. Non puoi dargli ragione se hai un briciolo di compassione. Il capitano Jim gli dà ragione. Oh, non portarmi ad esempio quel vecchietto! Esclamò la signorina Cornelia. E poi non mi interessa chi è d'accordo con lui. Pensa solo un attimo a cosa significa per quella povera ragazza, tormentata dal destino. Ci pensiamo, e come? Ma Gilbert crede che un dottore deve anteporre a ogni altra considerazione la salute del corpo e della mente del paziente. Ah! Tipico degli uomini. Ma mi sarei aspettata di meglio da te, Anna, disse la signorina Cornelia, più triste che adirata. Quindi si diede a tempestare Anna con le stesse identiche argomentazioni che lei aveva usato contro Gilbert, e Anna difese coraggiosamente il marito con le armi già adoperate da lui. Fu uno scontro lungo, ma infine la signorina Cornelia chiuse le ostilità. È una vergognosa ingiustizia, affermò quasi in lacrime. Una vergognosa ingiustizia, povera, povera Leslie. Non creda che si dovrebbe prendere in considerazione un poco anche Dick? Chiese Anna, continuando a perorare la sua causa. Dick? Dick Moore? Sta bene così com'è. Come membro della società è più educato e rispettabile ora che un tempo. Santo cielo, era un ubriacone! E forse peggio, volete rimettere in libertà la belva perché torni a ruggire e a fare strage? Può darsi che si ravveda, disse la povera Anna, le prese con l'avversario esterno e il rimorso interiore. Ravvedersi, un corno, ribatté la signorina Cornelia. Dick Moore l'hanno conciato com'è, ora, durante una rissa tra vinazzati. Il suo destino se l'è meritato. È una punizione che gli è toccata. Non credo che il dottore abbia il diritto di intromettersi nel disegno di Dio. Nessuno sa come Dick sia rimasto ferito, signorina Cornelia. Forse non è stato durante una rissa. Forse è stato attirato in un tranello e derubato. Anche gli asini potrebbero volare, ma non hanno le ali, disse la signorina Cornelia. Beh, in sostanza mi stai dicendo che ormai tutto è deciso e che non serve discutere. In questo caso starò zitta, non voglio certo mettermi a combattere contro i mulini a vento. Se una cosa è inevitabile, allora cedo. Ma prima voglio accertarmi che sia inevitabile. Dedicherò ogni mia energia a consolare e a sostenere la povera Leslie. E dopo tutto, aggiunse la signorina Cornelia, accendendosi di speranza, forse per Dick non ci sarà niente da fare. Capitolo 31. La verità rende liberi. Una volta deciso il da farsi, Leslie entrò in azione con la determinazione e la rapidità che la distinguevano. Qualunque fosse il destino che l'attendeva, andavano prima di tutto eseguite le grandi pulizie. Infine, la casa grigia sulla riva del ruscello presentò un ordine e una pulizia impeccabili, grazie anche al sollecito aiuto della signorina Cornelia, la quale aveva detto la sua ad Anna, poi a Gilbert e al capitano Jim, senza risparmiare critiche ai due uomini, ma non toccò mai l'argomento con Leslie. Dava per scontata l'operazione di Dick, vi accennava in tono pratico se era necessario, altrimenti la ignorava. Leslie evitò sempre di discuterne. Era molto fredda e tranquilla durante quelle belle giornate primaverili. In occasione delle rare visite che faceva ad Anna si mostrava cortese e cordiale, ma proprio quella cortesia costituiva una gelida barriera che la separava dagli abitanti della casetta. Gli scherzi, le risate, il cameratismo di un tempo non riuscivano a valicarla. Anna si ripromise di non prendersela male. Sapeva che Leslie era in preda a un timore atroce, un timore che le impediva di assaporare ogni sprazzo di felicità e ogni momento di gioia. Quando un forte sentimento si impadronisce dell'animo, tutti gli altri si ritirano in disparte. In vita sua, Leslie Moore non aveva mai guardato al futuro con un tale terrore. Ma proseguiva con fermezza sul suo cammino, così come i martiri dell'antichità non esitavano a imboccare la strada che li avrebbe condotti al rogo. La questione finanziaria fu risolta con più facilità di quanto Anna avesse temuto. Leslie prese a prestito il denaro necessario dal capitano Jim, insistendo per fargli accendere un'ipoteca sulla piccola fattoria. È un pensiero di meno per lei, poveretta, disse la signorina Cornelia ad Anna, e anche per me. Se Dick si riprenderà tanto da poter lavorare, potrà guadagnare quel che basta per pagare gli interessi. Se non si riprenderà, so che il capitano Jim farà in modo di non farli pagare a Leslie, anzi, me l'ha detto. Sto diventando vecchio, Cornelia, mi ha detto, e non ho figli miei. Leslie non vorrebbe mai un regalo da un vivo, ma forse lo accetterà da un morto. Così, da quel lato, è tutto a posto. Vorrei che anche il resto si sistemasse altrettanto bene. Quel povero disgraziato di Dick da qualche giorno è intrattabile. Ha il diavolo in corpo, credi a me. Leslie e io non riusciamo ad andare avanti con i lavori, tanti sono i guai che combinava. Un giorno ha rincorso le anatre nel cortile fino a farle stramazzare, e per noi non ha voluto fare niente. Sai, di solito si rende utile andando a prendere l'acqua o la legna, ma questa settimana, se lo mandavamo al pozzo, cercava di entrarci. Una volta ho pensato se solo ci cadesse a testa in giù tutto sarebbe risolto. Oh, signorina Cornelia! No, non è il caso che tu ti sorprenda tanto, Anna cara. Chiunque avrebbe pensato la stessa cosa. Se i dottori di Montreal riusciranno a ridare il raziocinio a Dick Moore, sono dei veri maghi. Leslie portò Dick a Montreal ai primi di maggio. Gilbert la accompagnò per aiutarla a sistemare i vari dettagli. Ritornò a casa con la notizia che il chirurgo di Montreal, da loro consultato, riteneva possibile la guarigione di Dick. Molto consolante, fu il commento sarcastico della signorina Cornelia. Anna si limitò a sospirare. Al momento del congedo, Leslie si era mostrata un po' fredda, ma aveva promesso di scrivere. 10 giorni dopo il ritorno di Gilbert arrivò la prima lettera. Leslie scriveva che l'operazione aveva avuto un esito positivo e che Dick stava trascorrendo una buona convalescenza. Che cosa significa esito positivo? Chiese Anna. Significa che Dick ha riacquistato la memoria? Probabilmente no, dal momento che non ne parla. Disse Gilbert. Usa un'espressione esito positivo dal punto di vista chirurgico. L'operazione è stata eseguita con riscontro di normali risultati, ma è troppo presto per sapere se Dick riacquisterà le sue facoltà in tutto o in parte. È probabile che la memoria non gli torni tutta insieme. Il processo, ammesso che avvenga, sarà graduale. Non dice altro? Sì, ecco la lettera. È molto breve. Povera ragazza, starà passando dei momenti terribili. Gilbert Blythe, avrei da dirti un monte di cose, ma diventerei antipatica. Oh, ci pensa già la signorina Cornelia, disse Gilbert con un mesto sorriso. Mi striglia tutte le volte che mi vede. Mi fa capire chiaramente che per lei sono più o meno un assassino e che è un gran peccato che il dottor Dave mi abbia permesso di sostituirlo. Mi ha detto persino che preferisce a me il dottore metodista che sta dall'altra parte della baia. E per la signorina Cornelia non può esistere biasimo peggiore. Se Cornelia Bryant stesse male, non sarebbe il dottor Dave o il dottore metodista che manderebbe a chiamare, disse Susan con un'alzata di spalle. Se solo avesse tanto male così, la tirerebbe su dal letto nel bel mezzo della notte, dottore caro, togliendole quel po' di sonno che si è guadagnato. Oh, questo è poco, ma sicuro. E poi direbbe che le ha presentato un onorario esagerato, ma non le dia retta, dottore caro. Il mondo è bello perché è vario. Per qualche tempo non ebbero altre notizie di Leslie. Le giornate di maggio si succedevano tiepide e serene e le rive della baia di Four Winds si ammantavano di verde, di viola e di fiori di ogni colore. Un giorno, alla fine di maggio, Gilbert tornò a casa e trovò Susan ad attenderlo davanti alla rimessa. Non so proprio che cosa abbia la dottora, dottore caro. Disse con aria misteriosa. Questo pomeriggio ha ricevuto una lettera e da allora non ha fatto altro che passeggiare su e giù in giardino parlando da sola. Sa che non le fa bene stare tanto in piedi, dottore. Non ha creduto opportuno dirmi che notizia era e io non sono una ficcanaso, dottore caro, e non lo sono mai stata, ma è chiaro che è agitatissima e non le fa bene agitarsi. Gilbert si precipitò preoccupato in giardino. Era successo qualcosa a Green Gables? Ma Anna, seduta sulla panchina vicino al ruscello, non appariva preoccupata, anche se si vedeva che era emozionata. Gli occhi erano grigi come non mai e le guance erano accese da chiazze rosse. Che cosa è successo, Anna? Anna rise in modo strano. Non crederai alle tue orecchie, Gilbert. Neanche io ci credo ancora. Come ha detto Susan l'altro giorno, mi sento come una mosca che nasce alla luce del sole, stordita. È incredibile. Ho letto la lettera decine di volte ed è proprio così. Non riesco a credere ai miei occhi. Oh, Gilbert, avevi ragione tu, perfettamente ragione. Ora lo riconosco e mi vergogno di me stessa. Potrai mai perdonarmi? Anna, parla in modo coerente o dovrò darti uno scrollone. A Redmond non ti riconoscerebbero. Che cosa mai è successo? Oh, non ci crederai, non ci crederai! Vado a telefonare allo zio Dave, disse Gilbert, fingendo di avviarsi verso casa. Siediti, Gilbert, cercherò di dirti tutto. Ho ricevuto una lettera e, oh, Gilbert, è stupefacente, assolutamente stupefacente. Non pensavamo, nessuno di noi immaginava. Suppongo, disse Gilbert, sedendosi con aria rassegnata, che l'unica cosa da fare in un caso del genere sia avere pazienza e procedere per gradi. Di chi è la lettera? Di Leslie. Oh, Gilbert. Leslie? Oh, cosa dice? Ci sono notizie di Dick? Anna sollevò la lettera e gliela porse con gesto lento e teatrale. Dick non esiste. L'uomo che credevamo Dick Moore, che per 12 anni a Four Winds tutti hanno creduto Dick Moore, è George Moore, il cugino della Nuova Scozia, il quale a quanto sembra gli assomigliava moltissimo. Dick Moore è morto di febbre gialla 13 anni fa, a Cuba.